Noi come agenzia dire, che è composta da 80 giornalisti con età media di 36 anni, quindi è l'agenzia più giovane d'Italia, seguiamo su tutto il territorio, nei palazzi delle istituzioni, del governo, del Parlamento, tutti i fatti che accadono. È un flusso continuo di notizie, quindi abbiamo pensato, è nata l'idea, di arrivare a metà pomeriggio, cioè intorno alle 17, e con una selezione delle notizie più importanti, quelle che danno il senso della giornata, quelle che si sentiranno dopo qualche ora nei TG o si leggeranno il giorno dopo sui quotidiani. Quindi noi facciamo una selezione di tutte le notizie di giornata, quelle più importanti, le mettiamo e le realizziamo e mettiamo a disposizione gratuitamente di tutti quelli che scaricheranno l'app sia per iPhone che sul sistema Android. Si scarica Dire Oggi, è un'app semplicissima, molto veloce, quindi alle 17 tutti sul proprio cellulare, sul proprio tablet, e per chi vuole scaricarlo anche in PDF sul portale dell'agenzia dire.it potrà avere a disposizione questo quotidiano gratuito. Tu hai già anticipato, insomma, alcune peculiarità di questo quotidiano. Innanzitutto l'uscita pomeridiana, che insomma rimanda alla memoria a tempi antichi, ma in un'interpretazione invece contemporanea. Certo, noi dobbiamo, come dire, stare al passo con i tempi. Il tempo, io lo dico sempre quando incontro gli studenti che vogliono fare i giornalisti, che il tempo mio, quello con cui ho iniziato io a fare questo mestiere, non è più il tempo di oggi. C'è sempre meno tempo a disposizione, però c'è sempre più voglia di essere informati, cioè il bisogno di informazione è cresciuto. Bisogna, come dire, riorganizzare il nostro tempo e riordinare un po' questo flusso continuo di news che ci arrivano da ogni dove. Con il servizio Dire Oggi, questo quotidiano gratuito dell'agenzia Dire, c'è la garanzia di avere a portata di click, insomma, di cellulare, le notizie più importanti di giornata garantite, cioè che significa non false notizie o chiacchiere così raccolte senza nessuna fonte attendibile, le notizie più importanti della giornata, e avere il quadro, diciamo, dell'informazione di quello che sta accadendo di veramente importante. Un'altra peculiarità, vedevo, sì, che oltre a essere digitale è anche interattivo, cioè è impaginato, diciamo, come un quotidiano, però c'è la possibilità di accedere a contenuti come gallery fotografiche, eccetera. Assolutamente, questo sono i tempi di oggi, la tecnologia formidabile, eccezionale, mette a disposizione dei giornalisti, ecco che ho detto l'agenzia più giovane d'Italia, perché i giornalisti dell'agenzia Dire sono dei video giornalisti, cioè ragionano per immagini, ragionano per video, quindi nel pezzo che loro scrivono per il quotidiano c'è anche il contenuto multimediale, chiamiamolo così, una gallery delle foto più significative, insomma, dell'evento, o i video che vengono realizzati sempre dai giornalisti dell'agenzia Dire. La cosa formidabile, vi invito a provare la nostra app gratuita, è che si scaricano veramente in un lampo, cioè la piattaforma come veramente interattiva, cioè non fa perdere tempo, e secondo me questo è un altro aspetto importante. Sappiamo oggi, appunto, con internet, che il panorama informativo è un magma confuso e affollato in cui in mezzo ci finisce un po' di tutto, anche cosa che informazione non è. Qual è, dal tuo punto di vista, ovviamente, che dirigi questa testata, il valore aggiunto del prodotto che offrite? Io vedo che c'è confusione tra due termini, informazione e comunicazione. Molte volte quando incontro i ragazzi, gente appassionata che vuole fare il giornalista, vedo che c'è confusione, si tende un po' a uniformare, diciamo, i due concetti, cioè a pensare che la comunicazione sia informazione, invece è una cosa molto diversa. Io non voglio denigrare il lavoro di chi fa comunicazione, è un lavoro importante che ha la sua dignità e fa parte, diciamo, della nostra vita quotidiana, però come dico sempre, informare ha a che fare con la verità, e la verità, come dicevano antichi maestri, il più delle volte fa male sempre a qualcuno. Comunicare invece ha a che fare con l'esigenza del politico, del governante, dell'impresa, di far sapere quello che di bello, di buono sta facendo quella persona o quella realtà o quell'impresa. E quindi, diciamo, i concetti sono molto differenti. Noi facciamo informazione, noi ci misuriamo ogni giorno, diciamo, con dei fatti, cerchiamo di scoprire dietro la dichiarazione se è quella la verità o c'è un altro pezzo di verità che bisogna portare alla luce e far conoscere ai cittadini.